c'è poco niente. Scusa un po', tutto. Se no ci sentiamo. Che è successo? Ci sentiamo dopo, Anto, così poi mi dai anche dei controlli. Capa, adesso se non devo fare qualcosa già ci sentiamo, ok? Ciao. Non ho votato FM, non c'è dito. Cos'eri in FM? ti sentivo tutto distorto a te e là c'è il problema. Ok, a quanto ce l'hai Mickey Gay? No, abbassalo, abbassalo, mettilo a metà. Ma quella è la potenza, però aspetta un attimo. Non è la potenza, fai come ti dice quello che c'hai vicino che lo conosce più di te. Minchia cazzo, sempre uguale sei tu. Fai quello che ti sta dicendo lui, abbassa Mickey Gay. Allora, prima l'ho abbassato. Ok, abbassa appena appena ancora. Abbassato ancora. Stai zitto, Robè, minchia cazzo, stai zitto. Poi te lo fa vedere lui come funziona, adesso fammi regolare la radio. Abbassa ancora appena. Abbassa ancora appena. Ah, cos'hai abbassato però? Non devi fare come dici tu, fai quello che ti dico io. A quanto ce l'hai? Adesso a 9 di 1. Mettilo a 2. A 2 ce l'ho. Mettilo a 3. A 3 in questo passaggio. Mettilo a 4. 4 in questo passaggio. Ok, adesso il compressore a quanto ce l'hai? A 9. Mettilo meno del massimo, anziché a 10 mettilo a 8. Ok, guarda adesso. A quanto è? A 8. A 8. Il compressore a quanto è? Al massimo. Mettilo a 6. Ok, guarda. Troppo basso, mettilo a 8. L'ho messo a 8. Ma quindi c'hai a 8, ma il compressore, il processore è lo stesso? Il processore l'ho inserito adesso, l'ho tolto. No, lascialo inserito. Ok, ecco qua. Perfetto. Il Mickey Gain mi ha detto a quanto ce l'hai, a 4? A 4 il Mickey Gain e anche la potenza a 4. La potenza a 4, quanto ti sta segnando il power della tua radio, della radio, non quella esterna, quella interna? Allora, la radio, aspetta un secondo. Fischia, fammi vedere i picchi. Di 35. 35 watt? Sì, sì, guarda, 35 di 3.5. 35, è abbastanza preciso quello strumento, non c'è bisogno manco di quello esterno. 35 watt, prova a fischiare a vedere. Vedi che sale? Ok, infatti i picchi sono positivi, se vai oltre sono negativi. Quindi quella è la potenza, 35 watt. Oh, ascolta, il Mickey Gain mettilo a quanto ce l'hai, a 5? A 4 ce l'ho il Mickey Gain. Mettilo a 5. Ok, giusto, 5. L'MC60 com'è? In posizione in o posizione out, Robè? L'impedenza quant'è? 50? Sì, 50. 50 è sotto in amplificazione? Ah, ma sotto di tasto questo qua, là, è senza tasto sotto. È acceso con 50 ohm di impedenza. Ok, mettilo a 6, Mickey Gain. Ora mi senti? 1, 2, 3, prova radio? Sì, sì, ok. Più di questo, quella radio non va. Non va, perché se aumenti appena distorce, questa è la regolazione sua. Queste sono le sue posizioni, questa è la sua regolazione. Ecco perché io il 940 l'ho sempre avuto, ne ho avuto 2 o 3, però ho sempre usato in banda laterale perché in AM non è che vada molto, è un po' più di un microfono normale, diciamo. Claro, prova, andiamo in FM. Adesso. Aspetta che in FM io devo cambiare radio, perché questa non è FM, che sono col baracchino. Pochino, io qui sono con le 430, fammi sentire qua, vediamo. Io sono in FM adesso, prova. Mi senti? 1, 2, 3, prova radio, canale 10. Sì, sì, va bene, va bene. Va benissimo, ma non è importante in MFM, fammela sentire in banda laterale, vai in USB. Siamo USB, 1, 2, 3, prova centrale, canale 10, 27, 075, anche se non siamo esattamente, mettiti esatto. Al centesimo, aspetta, ecco qua, siamo a 75.00, mi senti? Sì, a 75.00, aspetta che tolgo il processore, ecco qua. Devi stare a 75.00, sei abbastanza centrato, va? Come mi ascolti? Vabbè, adesso non c'è il processore inserito, ha tutto il microfono, tutto la roba. L'importante è mi tiri fuori, sta funzionando, vedo qua, la potenza la sta tirando fuori. Non devi toccare niente, ricordati che il 940 ha la stessa regolazione che ha in AM, ha ricezione, come va? Comunque sta andando, vabbè, prova LSB, proviamo LSB un attimo qua. Prova. Ci sei, 1, 2, 3, prova LSB radio, prova radio. Sì, nell'LSB è leggermente fuori, ma appena appena, non è molto. Non ti ho capito, vabbè, ti devo darti bene, dai, stiamo solo facendo prove, se c'è la radio, comunque sta uscendo anche in banda laterale, va bene, dai. Sì, nell'SB è leggermente spostato appena appena. Ehi, allora ci dobbiamo centrare adesso. Rimetti la M, vai la M di nuovo, fra. No, FM, mambo. No, FM. Vai la FM, fra. Comparazione con il 44, a vedere cosa c'ha di ricezione, se è più silenzioso, a vedere. No, va bene, va bene. È che c'è basso di segnale. Son basso di segnale? Qua deve salire la potenza allora. Guarda un po'. Com'è sta uscendo così basso? L'accordatore, dai un colpo l'accordatore. Ora? Poi basso di popotore, poco fa saliva molto di più. Guarda, è grosso. Neanche 9,40. Mi senti qua? Sì, 9,40, sì. Solo? Sì. E io qua. Buongiorno. Ma se parlate insieme, io non so come state facendo a capirvi. Roberto parla insieme a te. Io non ti dico, vuol dire che non intendi. Un attimo di bianco. Sta facendo una prova, ora. Sappi che a me non piace il 9,40 m, lo sto già dicendo, quindi usa la banda laterale, perché a me non piace. Ciao, come lo senti Roberto? Ciao, così, ma intanto mi aveva... Ma di fatto c'è di un'altra da 9,40 al 4,40? Noi 27, sicché è inutile che fate i controlli, a che cosa non ho capito. In banda laterale ha spostato comunque. Claudio, differenza c'è di modulazione tra il 44 e questo? Ma Luca, non lo senti che lo parli sopra? Sì che l'ho sentito, infatti l'ho lasciato parlare, adesso sto domandando a te. No, bicho, Roberto, ti sto dicendo, da che modiano? Ti sto dicendo che io 9,40 in AM non l'ho mai usato perché non mi piace. È una modulazione completamente diversa, è una tonalità diversa e non ha nessuna spinta, ma infatti come diceva Luca, tu non penso che l'hai preso per usarlo in AM, perché allora saresti proprio, non so come dirlo, però la radio da SSB in AM non serve a niente. Ok, segnale adesso quanto è clà, dammi un rapporto. Come quello tuo, 9,50. Ok, adesso io mi faccio le prove in ricezione, clà, vediamo un pochettino, dai, ci sentiamo dopo, dai, ok, ciao. Questo cos'è, sempre 9,40? Cos'è questo, 9,40? Io non capivo perché ti parlava sopra, appunto. Ho detto forse non c'è ricezione, perché io sentivo a te appena appena, però anche a lui facendo le prove comunque. Va bene, dai, continuate, niente. Non volevo continuare, ma dammi due, ma che dato? Io sapevo che ci dovevi essere anche tu. No, io non sono andato perché non posso muovere, c'è mia moglie sola. Io mi potevo muovere stamattina, in quell'arco di tempo, poi non potevo andarci. Ah, chiaro. Sì, vabbè, se lo hai avuto anche tu quello, lo sai, no? Così che sembra che vada bene, no? Io in banda lo sentivo spostato. 75.11 io lo sentivo. Anche io con questo, 430 questo è preciso. 75.11 infatti, quel punto anche di più, punto 13, 14. Ma io ho detto infatti che no, lo sentivo bene. Vabbè. Comunque non è radio la M quella, io l'ho avuto, a me non piace niente. Va bene in SSB, se è a posto, ma comunque. Sicuro l'abbia presa per quello, non per usare in AM. No, ma infatti l'ha presa per altri scopi, per HF, per AM già ce l'ha. Però magari ci voleva, magari pensando, vedendo una radio così grande, pensava che uscisse chissà cosa in AM. No, io l'ho già detto che in AM non va bene. Non c'è radio che vanno bene come questa e come le altre piccoline, quella lì non serve a niente, a me non piace. No, qua ti sta chiamando Bacchisio. Non lo sento io Bacchisio. Alza la voce, però non si sente. Non lo sento, Battigio, non lo sento, sento un segnalino, però voce non ce n'è. Ciao Battigio, mi stai ascoltando? Sì, io ce lo sento. Via, ciao Battigio, bacio bacio, arrivi qua. Gianni, tu lo senti, verrai attaccato, per favore lo senti. Qua il segnale è 7, ma radio io non ne sento. Non posso pretendere molto perché... Come stai, Vacchigio? Vacchigio? Siamo alla fine. Ehi, perché magari pensai sia su 23, non è su 10. Beh, uia. Marchi, vedi se sul 10, me. Come dai, raga, io vi lascio però, perché mi ha svegliato Roberto a provare questa radio. Vado a sdraiarmi, dai, sentiamo, sentiamo dopo più tardi, non lo so. Dai, ciao a tutti, ciao, ciao. Ciao, ciao. Sono i quattro visti, è diventato già abusato la Gandria, no, no, non saranno. Ciao, ciao, ciao, ciao Gianni, ciao Luca, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. Già, vabbè, ormai è andato sì. Ormai? No. No, mi sono pulito, sono legato nei vincitori stamattina, via. Non vedi che la maglia, dopo che pulisci le gambe devi pulire tutto intero, devi... Insomma, un bello stress, dai, mi sono stancato un bel... Perché il giornale non glielo metti? Ma non cagano, però vuole cambiare, vuole pulire, voglio pulire le streghe, cambia il mangino. Già lo so, travaglio, vai, ce l'avevo anch'io, facevo le coccolite, i verdoni, cardellini, diamantini, cosa non ho già avuto? Dove io travaglio, vai. Io c'ho i canarini, cantano bene, c'ho canarini e cardellini, tu, non c'ho, cantano bene, mi tengo qui, che cantano. Io c'ho un amico che c'ha fasi di indiani, quaglie, non so di dove sono, che fare, del Sud America. Però non canta, non capisco, sono uccelli così grigi, non dico nulla, invece sono tutti colorati, cantano bene. Ma liberali, falli volare, poverini. Così la morte è assicurata. No, c'ho la cognata di mio figlio che hanno un negozio e più fanno le, come ti si dice, le sfilate, dai, di questi uccelli colorati, tutte le cose. Cosa fanno? Le fiere, dai. Tipo fiere, sì, che c'è l'uccello più bello. Io sono andata, sono che hanno fatto abbancata, non so se è andata, non ho fatto la roba. Case di Cenerini. Ma che a me? Lo sai che stavo guardando l'altro giorno? Sto facendo un palamento. Ma Cenerini sono anche i piccini. Caspita, ce li aveva un amico, ce li aveva. C'aveva i pulli proprio dalla covata, che perché covano in gabbia, li crescono, capito? Cioè, poi li devi dare. Se non c'è richiesta è un casino. Luca, fate le tromba. Chi è? Luca, dinosauro. Luca, poi mi devi spiegare come funzionano quelli... Quelli chiami che fai in cellulare? Come funzionano? Quelli lì si usano per la pesca a sub, capito? Praticamente o ti nascondi dietro uno scoglio oppure fai l'aspetto, quando scendi giù giri con la rotellina e quella produce come il mosso, tipo quando l'orata spacca il guscio delle cozze, mi capi? Trick, trick, trick, e tutti questi pesci sono attirati da questo tipo di rumore, vengono a fiuti proprio, capito? Quando sentono questo, come quando tu batti il calcio del fucile sulla roccia, no? Sullo scoglio quando si ha l'aspetto, la stessa cosa è questo. No, io pensavo che tutto il rumore facesse un piano, però vabbè, è un rumore magari che loro li attira perché sentono i pesci che mangiano, secondo voi. Esatto, capito. Sicché sia il sara colorata e la spigola sono, vabbè, la spigola basta che veda un riflesso, una cosa, però li attira fortemente, capito? Sicché diciamo che la cattura è quasi sempre garantita. Gianni, non ci credere, sono tutte stupidaggini. Non ci credete, sono tutte stupidaggini. Hanno detto se si prendono anche le bambose. Le babose le prendi un bel. Babose e poi ci sono, come si chiamano, i camarini. No, dammi la scimmia. Buonasera. Ciao Tino. Eia. Mi sono posto a portare quella roba da Aviero. Da quello là, capito? Me l'ho portata poco fa. Bene, bene. Oh, ci credi tu che non ho fatto niente di quello che ti avevo detto? Dovevo tagliare, non ho tagliato, però vabbè. Aspetteremo tempi migliori. L'ho tagliato tutto, allora ho freddo oggi. No, ce l'è, ho la riserva. Beh, se stavi facendo quella roba là. Va bene. Luca, perché vendolo? Comprate richiami. No, io lo stavo solo chiedendo, ti fanno. C'è anche, ci sono anche quelle gocce che si mettono nell'amo, vi dico, che attirano il pesce. Io non ne ho mai provato. Ma guarda, Gianni, io ho provato dei richiami che però sono tipo delle luci, non luci LED, che si accendono a intermittenza e il pesce è curioso, quindi sì, funziona. Quando per attaccare la vetta? Diciamo in zona del piombo, là, dipende che calamento fai. Io faccio di solito scorrevole. Quindi scorrevole ti metti l'amo dietro dopo il piombo? Ho capito, io ho utilizzato quella tecnica lì per le onatte, quindi amo dietro del piombo e amo anche avanti però, prima del piombo. No, io davanti non ne metto, anche perché si attorciglia una volta, no? Ne metto uno solo ben messo, con un bel vermone di quelli che attirano le onatte grosse. Prova a metterci un richiamo lampeggiante. Le onatte riferiche. Quelli che usano per i calamari, sì, quelli che stai dicendo tu, capito, dalla barca. Sì, Luca, però anche, sì, di notte Gianni, però anche per l'orate. Sì, li utilizzano, io adesso sono un po' fuori dalla cosa, sono un po' di tempo senza seguire più niente, però li utilizzavano anche di notte è un richiamo praticamente, il pesce è curioso, si avvicina, poi giustamente vede la roba a mangiare e poi dipende da lui cosa voglia fare. Sì, vengono attirate queste cose, io invece facevo un'altra cosa, vado a pescare i calamari e gli davo un colpo di flash al pesce finto, si illumina, rimane fosforescente e lo mangiamo così. Era praticamente si faceva così. Adesso se ci sono nuove cose che hanno nuove trovate, ben venga. Allora, hai visto anche nel letto panare, Luca, nel letto panare c'è quello luminoso, quello che c'è con la batteria, ogni tanto dall'impulso della luce, giustamente, in profondità, insomma, essendo buio, attira i calamari. Sì, l'ho usato, ce l'ho io quello lì. Lo giri in un senso e si accende la luce. È molto luminoso, lo sai. Sì, stiamo andando a colicarmi, adesso mi faccio una pennichella perché dopo il pranzo, per carità. Che sei già tutto demagnato? Andiamo a... Ti ho dato un coso, non so se l'hai detto, Aspetta, sto rispondendo, anche non ha già compreso nulla di questo. Come andiamo? Sì, vabbè, praticamente la parlata di una persona contro un'altra. Vabbè. Bene. Oh. Sta sempre bene questa radio? Sempre. È la mia, modulazione com'è? Sì, ottima Gianni, ottima. Bella, squillante, forte, un leggero eco e comprensibile. benissimo, va bene. Sì, ciao, avrei mutata, perché sono invidioso. Invidioso, per carità. Perché? Vabbè, ciao, no, vado a fare una passeggiata a Sassari, vediamo un po' cosa c'è da comprare, va. Visto che sono straccomodi di soldi. Mi dà più coronavirus, ma poca ne dirà, poca ne dirà. Coronavirus, venchi, no, corona. Luia, non va andare, non andare in mezzo al traffico. Ah, no, ci conosce gente, troppa gente, no, passiamo dove possiamo passare, ciao, cambiamo strada, là. A dopo, ciao. Scusate un attimino, bianco per me, devo spostare. Non spendere troppo, ma che tocca, ok. Ottimo, il telefono di Milano. Mi vicino sta vendendo cravie. Se interessa qualcuno. Io uccidi, se interessa. Perché? Sì, perché non le punti là? Tino. Tino. Ma Tino è crollato. Sì, la mia coglia è venuta. Bobo, ma dove andiamo? Io cugino. No, perché io quando ne avevo troppe ne portavo. Gli chiedevo se le voleva, ma se ne paga 10 euro. Molto mercato secondo me. Prima quando c'era la casa degli animali te la ricordi? Da quanto andava? Ciao socio, io ci compravo molto la casa degli animali, anche perché le città, no, ma adesso il mercato c'è, ce ne sono di prezzi degli animali, ci sono stati Alghero, c'è Alpazzo, poi c'è uno via Pasquale Paolo, c'è uno dove c'è Vistis. Io li conosco tutti, poi c'è Al Caplare, perché qui vede solo mangini, gli animali non ne ha più. Al Caplare è il vecchio, quello che c'era che si sarebbe battista. Sì, era uno anche, non so se è ancora aperto, lì dopo la bottega di Giulio. Sì, l'arca di Davide Biosi. Ma quell'animale non ne ha più. Sì, quello sì. Davide ne ha, ma sono sempre limitati, c'ha la voce in pesce, quanto cipino, ma c'ha poca roba. E prima, quando c'era, non so se te ne ricordi, forse sei troppo giovane, ma ce n'era uno lì a Roma, dove c'era un pappagallo che si chiamava Loretto, e quando lo chiamavo gli diceva, come si chiama? Loretto, poveretto. No, io ho conosciuto un merlendiano lì, però non era via Roma, era via Torino. Ah, c'è anche via Torino, ma non lo so se ci sia ancora a questo punto. Si chiamava Marco, il padrone. E la mamma gli diceva, dove è Marco? E gli chiamava, Marco, Marco! Sembrava una persona. Sì, a me ce n'è da uno, con appunto lo sportello del furgone per scaricare, faceva un cigurio, e poi se ci voleva un po' di grasso. E sempre mi dimenticavo di vendere. Quando arriva questo meridiano mi invitava, come aprivo lo sportello, poi suonavo il campanello per fare la consegna. E lui diceva, chi è? E io, tu risparmi. Chi è? Di nuovo. Posta? Chi è? Posta? Capito? Ed era un bello indiano, una parola, è questo delinquente che la prende in giro ogni volta. Sente il postino quando arriva e quando suona il campanello dice sempre chi è? Posta? Sono belli i merli, magari tu gusti. Ma fanno un casino nero, quando fanno il fischio ti stanno entrando lì, che cazzo in casa non si può dire. Comunque anche pappagalli, fanno delle grida, così, mi cavolo, c'è quello che c'è quello zoo, di quelli grandi, i cacatuoli, quelli belli grandi, tutti colorati, cazzo. E quelli sono centenari, perché ho chiesto a chi li prendeva, diciamo il valore del momento, ho chiesto. Il giorno che c'era la fiera al mercato, mi ha detto, questi campano più di lì. Sì, già sono belli, già sono belli. Ma ci vuole lo spazio, dentro casa non fate niente, io sporcano un casino, ogni aggregato. Poi ci vuole una gabbia grande grande, comunque, non puoi mettere un merlo in una gabbietta. Oh, chi è che vuole cavie? No, nessuno, ti stavo dicendo, perché non te le vendi se Marco, li ho venduti a 20 euro. Anche io le sto prendendo così. Ma più guardi, è passato a telefono subito. Ogni tanto viene qualcuno, se le chiede a me, ma le chiede però anche dopo che gli agostini si è fatto un po'. Sì, ma ne sono nate 4 ieri notte. E poi pastori tedeschi ti servono? Già mi piacerebbe averlo, ma ce l'ho già di casa. Anche questa qua ha partorito, no, ve ne ha fatto, però 3 sono andati male. Ma voi? Sì, sì. A puri puri so. C'è una cosa incerta, c'è, perché ho un pastore tedesco e un pitbull. È muso come l'hai diventato, lungo oppure come dire? Già, hanno 2 giorni, 2-3 giorni hanno anzi. Quindi ancora non te lo so dire. Ma cos'è? Qualche cane che è fuggito, è giusto da te, o è tu che scappate e andate da poi? No, no, è il mio confidante che ce l'ha, il pastore tedesco e il pitbull. Sono tutti 2 maschi e uno di 2 deve essere. Col capretto. Non si sa con chi è andata la signora. Per tu ma cresco non ci vede. Si vede subito, come credo che cominciava un formato diverso dal pastore tedesco, è tutta l'altra minestra, uno sono volussuri e il pastore tedesco è l'altro di E allora? No, ma se piti vuoi me lo tengo. Una mia, un'arma. È una pistola, eh? Lo stesso, infatti era mia intenzione di prendermelo, solo che non sapendo a chi chiederlo, perché se lo prendi puro, il dogo è micidiale, anche quello è come una fucilata, ma poi in campagna a me mi fa bisogno una cosa del genere. Sì, no, quei cani, chiedilo a Claudio, un giorno li abbiamo trovato il figlio di Chetti, quello che ci aveva secondo come gli ha detto, lui ha detto che lui lo lascia libero, c'ha il giardino grande, lo lascia libero un pochino per fuori, non fa la vita del cane, tutto per fuori, però quando lo vuole portare in giro li mette in quintaglia, lui gli piace uscire, sta bene con tutti, e sono le persone strane, ha detto che aggredisce, le persone strane, sempre per qualche persona strana, tipo lo zingaro, ma vabbè, io sono sempre del parere che il cane è in base a come lo educhi, se lo educhi a fare guardia, se lo educhi pure a difesa, dipende come lo porti avanti tu, dai. C'è anche l'indole del cane però è fino, non te lo dimenticare, perché il mio, io l'ho sempre educato bene, l'ho sempre fatto socializzare con gli altri animali, allora è diventato male. Se non conosce la gente si tira il naso, c'è poco da fare, non va a toccarlo, se vai a toccare una persona che non conosce salta addosso. Guarda, io ho avuto per anni e anni il pastore, come si chiama, il cazzo bianco, a fanculo, aiutami. Il maremmano. Bravo, il maremmano. Il maremmano ha solo un padrone. Tu pensa che in base a come l'ho educato io, se tu per dire lo volevi accarezzare io te lo facevo anche accarezzare, se tu andavi di tua spontanea volontà lui non si faceva toccare. Sì, poi il maremmano è molto autonomo come cane, è molto a sé. Tu pensa che ringhiava a mia madre e a mia moglie, quindi ti ho detto tutto, quello è poi in famiglia. Però quando c'era con me si pisciava addosso. Ma il cane così, che è un cicato di famiglia, non va, perché il ringhiato di famiglia non va bene. Non mi piace, quelli di famiglia li vedo le adesso per dire una notte e stavo passeggiando col cane, erano le 10, 9 e mezza, 10, e allora ancora si poteva passeggiare alle 10, adesso non si può più fare. E fatto sta che c'era questo tipo davanti a me e io ho rallentato il passo proprio per evitare che lo toccassi, cosa del genere, perché gente che non lo sa magari va a toccarlo di colpo. Oh, questo qua non si gira di colpo, cazzo, mai l'avesse fatto. Su quattro zampe si è sollevato, se non ce la faceva a tirarlo con un taglio gli saltava addosso. Non è un problema. No, vabbè, a caso non ha mai morsicato nessuno, per carità. Però quando lo sgridavano per dire per spostarsi o quant'altro, allora lui faceva il ringhio, capito? Poi bastava guardare lui, abbassava gli orecchi e si pisciava addosso. Lui lo fa quando per dire che con i cazzo non ti fanno e qualche si mette al posto suo, allora si incazza. Bene, bene. Va bene ragazzi, sono andato a salutarvi, che adesso devo fare due cosette qua. Devo mettere a posto questo cacchio di televisione che non riesco più a trovare il telecomando, quindi devo impostarlo manualmente. E poi niente, poi sicuramente una piccola pennichella ci sta. Adesso dobbiamo tutto quanto comprare dei decoder, mettere il DAB nella radio. Non c'è più nulla, di oggi ho sentito che non possiamo vendere più telefonini che abbiano la radio incorporata, non si può vendere né di prima mano né di seconda mano, dove ci sono radio incorporate. Ma che se ne vanno a cagare tutti quanti, Gianni? Sto sentendo tante di quelle stronzate in giro che la metà basta, non ho, con la mia testa penso con la mia, dai. No, ma che perché è una cosa detta dal giornale, no? Non è roba, capito? Non è roba di internet, per capirci. Adesso anche la radio che c'è in macchina, io la macchina l'ho comprata 2 anni fa e devo mettere il DAB nella radio, se non la sento più. Ui, vabbè, non lo so. Va bene, chi c'è rimasto? Sempre Luca Fisarce. No, quello ormai sta dormendo. Dormitasi. Vabbè, signori, dai, divertitevela. Ciao, a più tardi. Ciao, ciao. Ma perché? Allora, io stavo cercando di farlo, ma qui acceso la vedo, se c'è la gente, mi sono fermato. Avanti, un critico. Allora. Tommy. Boh. Allora, dopo mi assaggio un mirtino rosso. No, oh yeah, ha fatto il pieno, basta. Basta perché sono barcollo. Glicemia a 1000. Anche te no, diabetico. Sì. Poi conosci una ragazza che è nana. Si spaventa. Ciao. Ciao, ciao. Luca, ma ti hai detto che non bevevi, allora non è bevendo il vino. Allora, non perché ho bevuto il limoncino, l'acqua di limoncino mi piace, quella che c'è da vita, non è buono, costa 3 euro e qualcosa, non prendo 6. Ma questo è fatto in casa, no? È comparato, capito? È perché la crema di limoncino, poi o il bilis. Quella, tu dici, la crema di limoncino. Infatti non è che bisogna abusarne, anche se la cosa l'aprile. Ah, una tazzina da caffè farebbe se fa. Sì, una. No, una. Per digerire magari quando mangi troppo, ma adesso sto pensando a 24 devo fare, ce l'ho. A digerire quella roba ci vorranno 3 giorni. Poi si avanza, 3 giorni mangiati la parte si torna. Bah, no, sai, Natale così. Sempre di mettersi menù, o passa al forno, gamberi, e passa ai frutti di mare, carta, agnello, porcetto, un menù di su, è ormai una tradizione, un'usanza, dai. Sì, è vero. Ma io penso che il 24 farò, sì, faccio gamberi, carne non è cucino, perché devo fare insalata di polpo. E poi faccio i gamberoni, poi la pasta al forno, tutti già purtroppo devi guardarti gli altri mangiare. Qua poi tagliano il pandoro col cioccolato e tagliano quello, oh yeah! E tu che soffri, invece di venirti incontro loro, no? Poi basta dico, che buono, uia quanto è buono, assaggialo, che buono, che buono. Si sporcano i lati della bocca apposta per farti soffrire. È bello che c'è proprio quello al cioccolato, che te l'ho comprato, il pandoro al cioccolato della Paoli ho preso. A me mi piace più il panettone di tutti i canini, lo sai, non mi piacciono gli altri così, io mi ho comprato il panettone fino, panettone fino è quello di tutti i canini, è un bel buono. Sinceramente il panettone non mi piace, ma proprio per i frutti canditi. No, questa scorza d'arancia, babba mia, ma l'uva passa, sì, l'uva passa mi piace, ma l'urresimo. No, non mi piace perché lo rende umido, non lo rende asciutto, mentre invece il pandoro chissà cos'è asciutta, non c'è. A meno che lo prendi a quello con la crema di quello oppure di quelli farciti, capito? Perché se no il pandoro in sé a me non mi piace, ma cos'è asciutta e va. Ehi, un attimo, senti fette la buccia. No, a me mi piace un bel panettone. Sia a me che a mio figlio, a tutti e due, infatti l'ho comprato per noi. Poi le donne si mangiano il pandoro. Pandoro al cioccolato. E qua, Già l'ho preso. Già l'ho preso il pandoro al cioccolato. Oh, Iulia. Ce ne fosse sentito in queste cose, Iulia. È anche troppo umidosito. E poi... al centro diabetici ti fanno nuovo, ma devo prenotare per aprile. Io non sto prenotando nulla, non sto mandando telefonando, tanto capito che non ho più caso. Il telefono strumento si deve tramite email, sì, ti ho mandato tutte le analisi tramite email che mi spostava a mettere acqua un capo. Ah, questo è molto bravo, questa di San Camillo, veramente in gamba. Ma buono? Sì, molto meglio di me. Che hanno prima tu? Tu cosa hai fatto per cambiare? A me mi ha dato l'idea che la Scardaccio era andata in pensione. Ah, automaticamente ti hanno mandato a Santo Camillo? Sì, però lì la diabetologa mi ha detto guardi che se vuole può andare anche a Palazzo Rosa, va lì e fa richiesta lì e gli affidano una dottoressa lì, capito? Se no puoi scegliere anche lì di San Camillo. Ma a te ti conviene a San Camillo, sei più vicino a San Camillo che a Palazzo Rosa, non ti paghi il parcheggio, ogni volta lì io devo pagare il parcheggio per andare... perché non trovi il parcheggio, manco un gatto in greco lo trovi. Poi girando 3 ore tu sui tu pensi ragazzi ti conviene andare con l'appagamento e ogni volta ho 3 euro, 4 euro perché c'è gente, prima serve a uno, poi serve all'altro, io sempre ci senti, poi non si parla quando mi sta americano in piede, che mi faceva rimetteva tra un paziente e l'altro e mi faceva aspettare un bel altro un'ora, così devo avere pazienza perché c'ho un po' di e me lo pensai senza diabetologo già, mica una cosa che ci dobbiamo scegliere noi se andarci o non andarci purtroppo, anche perché devi fare delle analisi, lo sai, no? Colesterolo, le glicemie, tutte le robe. Sì, ma infatti mi deciderò dopo Natale, sciocchiamo, se vedo che così prendo, vado al punto di cambio. Dottore, ma il cupo c'è al Palazzo Rosa, vero? Che tu sappia, perché a me mi avevano assegnato questo dottore che era un po' malinino, non mi piace, no, era un po' durito al Palazzo Rosa e poi me ne sono andato via a Centuria Vito, però ha un modo di fare i suoi dottori, dico, tutto strafottente, anche con l'infermiera, gli ha preso a bucci la mattina a me, no? Perché per me era proprio così. Ma tu stai continuando ad andare? Beh, ecco. Avanti. Ebbene, mi stavo ascoltando 5 minuti con un coso. Cosa e cani state vendendo? No, cani no, io no, Tino Muscolo. Cos'è, affidato qualche animale? Cani e anche capi, se ti interessa. Capi peruviane. Capi e? Ha avuto 2 nascite, delle capi di capi. Capi e, così è detto? Capi e peruviane, sì. Però sono pappagalli. No, non sono pappagalli. Ma io cerco lo scudo. Sono tipo porcini di India. No, non mi piace a me questa cosa. Infatti, i cani mi piacciono tanto, però ci vuole spazio. Io da tenerli in appartamento non è voglio. Chi che sta in campagna li tieni, li lasci a pascolo abusivo, ma tenerli in casa, a portarli in giro, a fare i bisogni, devi stare attento, non ti sporchino a casa, non lo lasciamo perdere. Ho finito con i cani io. No, no, basta educarli bene, i cani in casa non se ne sporcano. A me, la verità, a meno che sia diarrea che non ce la faccia, ma... E lui ha i suoi orari, scende al suo orario, non sporca nulla, sta come sopravvivente a casa, non rompe nulla, non fa nessun problema. L'unica cosa è il pelo che devi stare a pulire di più la casa, cioè quello se uno si sa convivere con l'animale non c'è. No, no, io in casa qua non ne ho mai avuto, li ho avuti in officina, ne abbiamo avuto diversi di cani, ma con l'ultimo che è morto ho detto, boh, finiti gli animali. Non... Mi piacciono un bel, ti ripeto, i cani, io sono fanatico dei gatti, non lo posso vedere, però il cane mi piace un bel, ma in casa niente. Mamma la pensava come te, perché diceva che gli animali hanno bisogno dei loro spazi, che sono belli, però devono avere il loro spazio, perché anche loro, oltre ai voi, anche loro devono stare bene. No, ma a parte quello, secondo me in casa un animale non è igienico, nel senso c'è gente che si sturboni nel letto, i peli, io forse perché sono schizzinoso di natura, a me non mi piace vedere peli in terra, cose così, anche se tu puoi essere l'animale più pulito del mondo, ma i peli, già mia figlia quando vedo i capelliccio in terra mi vengono i nervi, dico raccogli, non lasciarmi niente in terra. Guarda, io a casa il cane ce l'ho, se tu vedi a casa è sorprendente, non c'è un pelo, perché io basta pulire i peli non ci sono, è come la polvere, tu casa, se a casa lo pulisci ti si forma la polvere e poi ti cresce la lana. Sì, ma a parte quello lì, il cane, se tu sei coricato te ne salta sopra il letto, no? Mi dà senso di sporcizia, può essere il più pulito del mondo, l'hai fatto uscire prima in strada, i piedi li appoggiati in strada e poi ti rimuovono in alto all'orecchio, no? Lascia perdere. No, no, no, beh, capisci male, allora, quando il mio cane, quando sono dalla passeggiata, come fece anche Claudio, io li pulisco la gamba, le zampe, il pisellino, il sederino, lo pulisco tutto quanto il muso, ho le salviettine antibatteriche e li pulisco tutto. In più salta sul letto, però c'è la copertina sua sotto al letto, poi io tolgo la copertina quando mi devo coricare ed è normalissimo. Le copertine vengono lavate sempre, se tu hai un po' di igiene il cane è pulito. Sì, però è sempre un animale, non è una persona, dai, tutta l'attenzione che ci puoi mettere, tu anzi ne metti pure troppo, però non è la stessa cosa di un cristiano che si cambia tutte le mattine, si toglie il quello, le mutande, le calze, è sempre un animale, dai. Io non ho le mutande e le calze, cosa si studia? Come tutti i povaracci. Me ne devo comprare il peritoma per Capodanno, rosso glielo compro. Cosa li compri? Il peritoma rosso. Ehi, al cappottino non glielo prendi la scarpina, c'è gente del Moniburu di stivaletti in gomma per l'inverno, così se camminano le pozzanghere non si bagna i piedi. Ah, quelli sono cazzate, robe. Il cane è nato per stare come il pelo lo protegge, c'è gente che gli rasa il pelo, al cane invece il pelo lo protegge sia d'estate che d'inverno, sia dal caldo che dal freddo. Molta gente non lo sa, non si è documentata, li mette i cappottini, li rasa il pelo, li invasi, No, il mio pelo corto, però ne perde poco la vita, non è stato solo tra una stagione e l'altra, qualche cazzo di pelo ce l'ha, però perde poco un pelo. No, ma cioè, non per cosa per vantarmi, ma il mio cane è pulito, io gli faccio il bagnetto, io lo tratto come un figlio lì, se non ce l'ha lo devi trattare bene, se no è meglio che non ce l'abbia, per lasciarlo abbandonato in campagna senza bagnare, o dandogli avanti, roba del genere, è meglio non avere. No, io non sto dicendo così, quelli sono animali, il peggio del cane, quelli che si comportano. Io parlo, se io abitassi, tipo mio fratello, che lui abita, non dico in campagna, abita a Montebianchi, non c'ha un bel terreno, c'ha diversi cani, ne ha avuto decine di cani lui. E lì stanno in un posto chiuso, non è, scusate, anche se qualche volta sono usciti e si sono afferrati dei buru, bisogna stare attenti pure quando c'è il cancello aperto, infatti lui quando esce deve stare attento che i cani rientrino tutti, perché sennò se succede qualche guaio, c'è un amico mio ammazzato, l'altro giorno ha ammazzato 9 pecore, il cane suo mare in mano che se lo vedi è spaventoso. 9 pecore su di là, Fai che costino, penso, 1500 euro l'una. mi dite no, ma lui adesso si è fatto un'assicurazione, ha detto così non mi butta più, sono dovuti pagare tutti gli agnelli. Ce li ha mangiati. Ma neanche mangiati, li attaccano, le musicheggia, le fa pezzi e poi se ne va. E i cani sono così, i cani mare a mare. Eppure il mare a mare dovrebbe avere l'istinto di pascolare le pecore e roba del genere, invece li musica pure. Invece il cane sai cosa fa? Se il gatto si ferma e lui si blocca, se invece lo vede correre lo attacca, capito? Se si ferma ancora che il gatto è coraggioso. Allora io ho visto dei combattimenti tra cane e gatto, è partito il gatto al cane, l'ha aperto tutto quanto, uno gli ha tolto l'occhio, l'altro l'ha tutto aperto nel muso, ma proprio se me l'ha fatto col coltello, tagliante la taglia. E poi un'altra volta il cane è riuscito a prenderlo, il gatto l'ha ammazzato. Però se il gatto gli parte per primo, gli parte agli occhi, il cacchio nel gavarucci mi ha rugato. Io avevo un cane che il gatto gli prendeva al collo, un cazzo di... c'è anche il Claudio, avanti il Claudio. Ho detto cosa stai usando? Quello nuovo. No, mi piace la radio, molto meglio l'altra. E vabbè, qua devo abbinarci l'altro microfono, mi appento. Vabbè, questo mi serve come ricevitore, Claudio. Ascolta, la colonnina attaccata direi. No, non l'ho attaccata, avevo già un bel mano, non ci sta, devo fare delle modifiche. Ma si sente bene anche senza colonnina. Vabbè, non spinge, io quando ce l'avevo... Non lo usavo neanche perché non spinge come piace a me, capito? Comunque linea di massima già si può usare. Va bene, vai, continuate, ci sentiamo tra un po', dai. Ehi, non ce l'ha fatta tu? No, cazzo, mi ha svegliato Roberto e... Anche mal di testa sono. Ma io sono nervoso quando le fa vedere, ha detto che l'ha appunto la zanzara. Lo sapevo. No, io ero nervoso, perché tu non fai parlare la gente. Parlo con te o parlo con lui, sentivo due voci, sentivo fai qui, fai là, fai... Bisogna stare attenti quando si fanno queste regolazioni, perché poi sono dei punti di riferimento. Se io, siccome quella radio la conosco anche se non ce l'ho davanti, se ti dico che appunto devi regolare prima il compressore e poi il processore, se tu muovi tutto è un casino, capito? Per quello te l'ho detto. Avanti Luca, dimmi. No, io... sento sempre che si parla in due contemporaneamente, ogni casino. Dai, sto saldando. Tu senti in due che parlano contemporaneamente, con chi sto parlando io però? No, mentre parlavi tu, stavo parlando con Roberto insieme a Gianni, ogni casino. perché non ci si rilancia, capito? Beh, se io sto parlando con Roberto, gli altri vanno stare zitti. Se sto parlando con Gianni, gli altri vanno stare zitti. Se no è tutto mischia, vabbè, comunque. Dai, io vi sto ascoltando, fatemi svegliare e poi ci sentiamo, ok? Comunque, vabbè, quella usala come altre, con altri scopi, il 27 a me non piace, te l'ho detto, bellissima radio per tutto, ma in AM a me non piace. Ah, c'ho l'altra, dai, questo era uno sfizio che mi volevo togliere. Non me lo immaginavo così grande, è una bestia. Ti aiuto che mi hanno avanti al DAC, aspetta il fondo al telefono. Eia. Ok, chi c'è qua davanti? Ho sentito Luca, qualche altro c'è già. No, per il momento una radio nuova, una bella bestia, non si può dire, comunque dai, quando capita già te lo dico, una grossa. Cappata. Chi? Eia. Allora ho capito qua. Era il grande di qualche anno fa, di quello che c'ho io, però la versione è la più grossa, dai. È quella che non piaceva, a Claudio c'era la rivista che diceva che non piaceva. Allora, la M non è nata per la M questa, però io ti dimostrerò che utilizzando l'equalizzazione qualcosina già facciamo uscire anche questo, non sarà come 44 ma uscirà, però a me mi serve come ricevitore questo, perché c'ha già una ricezione spaventosa, rispetto all'altro ho fatto delle prove, adesso sono rimasto a bocca aperta. Beh, ma non esce male, sia ben chiaro che la radio è per la presenza, ma per la radio, chiaro. Ma è basso come livello di radio? No, assolutamente. Vabbè, naturalmente poi c'è qualcuno che può piacere un po' più corposo, un'altra di cosa. Comunque, a me mi interessava il ricevitore, perché questo è un quattro conversioni, per cui già ho fatto delle prove così, senza fare segnali troppo deboli, mi sono reso conto che di una sinuosità spettacolare, proprio rispetto all'altro, che è tutto fruscio, QRM, e questo invece è pulito, pulito, pulito, i segnali sono più furti. Diciamo che non è quella radio prepotente, ecco, quello sì, è una radio da salotto, se così la vogliamo chiamare, una radio da salotto, presente, non è debole come radio, abbastanza presente, non è brutta. Il segnale com'è qua? È già. È poco a vedere. Oh, questo è più basso dell'altro, però la potenza è più bassa. Quanti ne sarà? Neanche 10. C'è 9,22 qualcosa. 9,22. Va bene, va benissimo. Aspetta, provo a sollevare cosa succede. Ora? Ora, qualcosa è cambiato. Non stavo guardando. Ora? Ora? Pedino più. Non è che sale più di tanto, dai, lo metto più o meno come era l'altra, dai, così più o meno sono gli stessi watt. Se poi si registra, non c'è problema. Ah, ma già mi posso ascoltare, già c'ho un sistema per ascoltare, infatti le regolazioni poi me le faccio con calma. No, ma mi piace perché è un bel silenzioso, cacchio, abituato all'altra, ti sto dicendo già, non senti QRM, non senti niente, muto. Ma, 44. Ehi, è un abisso, cioè tu come quando parli un baracchino e poi ti metti vicino in ricezione un 44, è un altro pianeta questa radio. È successo anche a me, immaginavo messo il Cora, cazzo, non si poteva ascoltare, c'era un po' di QRM, adesso ho messo il 980 e lei si rende odissimo, sente la radio perfetta, selezionata appunto. E se poi voi la passa appena appena lo squelch e... No, ma la cosa bella è che non c'è QRM, cioè i segnali sono fortissimi, più forti del 44, sono molto più forti, però non c'è QRM, io quando stacchi lo squelch non è chiuso, è tutto aperto, eppure non c'ho QRM, io non sento disturbo, è silenziosissimo questa radio, ci avrà dei filtri neanche vicino al 44. Beh, sono radio che sono fatte dopo, capito? Quindi sono radio più selezionate, più filtrate. Ah, ma poi si sente anche bene, non ha, io non l'ho collegato, ho il suo altoparlante esterno, che è bello grosso, si sente bene, è attaccato al 44, e quello di linea, ma lo sto ascoltando con la radio, con l'altoparlante su, e ti posso dire, le modulazioni sono belle, chiare e pulite, per essere l'altoparlante su esterno si sente anche bene, naturalmente è un bel complicato, c'è una marea di funzioni che dovrò studiarmele, adesso si è dimenticato il manuale, ma cazzo, mi sono dimenticato il manuale, ma viene il 28, viene qua,